Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Chiusi oggi i lavori di Commissione Europea ed Europarlamento, resta in primo piano però la questione immigrazione, anche in vista del Consiglio dei Ministri degli Esteri di lunedì, che oltre alla questione profughi dovrà esaminare nel concreto l'ipotesi di una missione in Libia contro i trafficanti. Frontex rafforza intanto le operazioni nel Mediterraneo, anche vicino alla Grecia, per il crescente numero di migranti che cerca di entrare in Europa attraverso la Turchia. Non c'è, insomma, per l'Europa solo il fronte italiano. L'agenda europea della migrazione è nero su bianco in attesa che arrivi il 25 e 26 giugno sul tavolo del vertice dei leader europei. Intanto c'è il tentativo di sciogliere i nodi che si possono trovare all'orizzonte. Uno di questi è la richiesta inoltrata da vari paesi europei al Viminale di riprendersi complessivamente 29.000 profughi sbarcati sulle coste italiane ma poi andati all'estero. È il regolamento di Dublino che impone al paese di primo approdo l'ospitalità del richiedente asilo. Se quest'ultimo viene poi fermato ed identificato in un altro paese europeo ed emerge che il suo primo approdo in Europa è stato in Italia, lo stesso paese fa richiesta al nostro di riprendersi il migrante. È ciò che è avvenuto in migliaia di casi nell'ultimo anno, quando degli oltre 200.000 stranieri sbarcati in Italia solo una parte vi è poi rimasta, mentre gli altri hanno raggiunto diverse mete del continente. Dall'agenda europea sull'immigrazione presentata a Bruxelles c'è stato un primo scardinamento del regolamento di Dublino, con il via libera alla distribuzione di quote di migranti. E questa novità potrebbe avere un effetto anche sulle 29.000 richieste arrivate all'Italia. Intanto Frontex rafforza le operazioni nel Mediterraneo vicino alla Grecia per il crescente numero di migranti che cerca di entrare in Europa attraverso la Turchia. Il direttore esecutivo dell'Agenzia Europea Fabrice Leggeri si è detto preoccupato e ha confermato che nelle rotte c'è uno spostamento dal Mediterraneo centrale a quello orientale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La missione delle due navi della Marina tedesca impegnate nel Mediterraneo per far fronte all'emergenza profughi sarà intanto prolungata, detto un portavoce del Ministero della Difesa in conferenza stampa a Berlino. Ma il piano europeo dei migranti è un passo avanti, ma il sistema delle quote non funzionerà, dice invece Christopher Hein, direttore del Centro Internazionale Rifugiati. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Bisogna dire che sì, è un grandissimo passo avanti, che con questo documento della Commissione, come anche precedentemente una importante risoluzione del Parlamento europeo, c'è un'assunzione di responsabilità che prima non si è verificato. Cos'è che le fa pensare che questo sistema delle quote non funzionerà? Perché sono questi modelli elaborati a tavolino, secondo un calcolo aritmetico della popolazione, della disoccupazione, del PIL, eccetera, che non guarda in faccia alle persone. Non è che si possono determinare in tale modo la futura vita di esseri umani. Per questo, diciamo, l'abbiamo visto in tutto il mondo, non funzionerà così. Chi verrà, ad esempio, trasferito in paesi come la Lituania, la Slovacchia, non avrà intenzione di restare lì. Il giorno dopo sarà di nuovo in movimento. L'altra questione che resta ancora in primo piano è la Grecia. L'effetto contagio di un Grexit nell'eurozona sarebbe più gestibile di momenti più gravi della crisi, ma altri paesi potrebbero seguire l'esempio di Atene. Dunque la variante ideale è che la Grecia presenti velocemente riforme convincenti e assuma le sue responsabilità, ha detto il presidente della Bundesbank Weidmann in un'intervista al Handelsblatt. È chiaro che la capacità di resistenza dell'eurozona è oggi maggiore del momento apicale della crisi, ha comunque ricordato. E ha parlato da Washington intanto Mario Draghi, che ribadisce l'impegno da parte sua della BCE sul quantitative easing. We will implement in full our purchase program. Attueremo pienamente il programma di acquisto di titoli di Stato, che proseguirà fino a quando vedremo un aggiustamento sostenuto dell'inflazione. Così ribadisce da Washington Mario Draghi sul palco del Fondo Monetario Internazionale insieme a Christine Lagarde. Le misure prese dalla BCE hanno avuto effetto su prezzi degli asset e fiducia nell'economia. Ora, aggiunge Draghi, la cosa più importante è abbiano altrettanto effetto su investimenti, consumi e inflazione. Ma, avverte la Lagarde, la politica monetaria non è abbastanza, servono consolidamento di bilancio e riforme strutturali. E le riforme, come noto, costituiscono il nodo cruciale dell'accordo tra Grecia e creditori. Su gran parte dei punti è stata trovata un'intesa, ribadisce il sempre ottimista Varoufakis. Il ministro greco da Atene propone alla BCE di posticipare il rimborso in scadenza, 27 miliardi di euro in tutto, 6,7 miliardi miliardi tra luglio e agosto. Il debito greco è insostenibile, ma non deve essere tagliato, bensì ridisegnato, spiega il ministro ellenico. E dalla Germania arriva il monito della Bundesbank sugli aiuti alle banche greche. Non siamo onnipotenti. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. Per il momento con l'Europa è tutto, ma torna come sempre l'Europa Radio 24 a Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.